Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La Casa d'Argilla presenta Solaris per IF, Invasioni dal Futuro, di Stanislav Lem, musiche e live electronics Gianluca Ruggeri, flauti e MIDI device Gianni Trovalusci, con Vinicio Marchioni ed Emiliano Masala, Simone Castano, Tania Garriba, Fortunato Leccese, a cura di Lisa Ferlazzo Natoli. Alle 19, ora di bordo, passai accanto al posto di lancio e attraverso la scaletta a mano scesi nella capsula. La tuta si gonfiò e da quell'istante non potei più fare neanche il minimo movimento. In posizione eretta, sospeso in un cuscino d'aria. Ero tutt'uno con lo scafo. Prima che riuscissi a capacitarmi, davanti ai miei occhi si aprì un ampio spiraglio attraverso il quale si vedeva uno sciame di stelle sfavillanti. La capsula ebbe un sussulto e sentì un suono stridente, come di metallo che striscia contro un vetro bagnato. Il mio volo era già finito. Era iniziata la manovra d'attracco. Stazione Solaris! Stazione Solaris! Stazione Solaris! Qui capsula in arrivo, da Prometheus! Passo! Aspettai in silenzio per qualche secondo, poi ripetei la chiamata. E anche stavolta ottenni risposta. In sottofondo c'era un brusio così sordo da sembrarmi la voce stessa del pianeta. Vedevo la stazione, una colossale costruzione metallica forata da varie file di portelli scuri che non posava sulla superficie del pianeta, ma vi rimaneva sospesa a mezz'aria e proiettava sul fondo color inchiostro un'ombra di un nero ancora più intenso. Una rapida scossa restituì alla capsula l'assetto normale e dietro l'oblò l'oceano, agitato, risplendente come argento vivo. La capsula dondolò, scivolò verso la stazione, si immobilizzò con un terrificante clangore metallico. Mi trovavo dentro un'enorme volta di metallo argenteo. Lungo le pareti scendevano fasci di tubazioni colorate. Sopra di me i canali di ventilazione ruggivano per aspirare i residui velenosi dell'atmosfera del pianeta. I ventilatori si fermarono e cadde un silenzio totale. Mi guardai in giro aspettandomi di vedere comparire qualcuno, ma non vidi segni di vita, solo un nastro trasportatore già in movimento. Vi salii finendo in una rotonda dove si aprivano numerose porte. Dappertutto un incredibile disordine, un liquido oleoso formava una pozzanghera sotto una catasta di bidoni. L'aria era impregnata di un odore forte e sgradevole. Fra i bidoni c'erano rulli bianchi di banda perforata, carta straccia e rifiuti di ogni genere. Vidi una porta socchiusa. Entrai. 5 o 6 tavolini metallici a rotelle poggiavano sul pavimento e fra loro alcune poltroncine afflosciate. Una sola era gonfia, con lo schienale inclinato all'indietro. Vi stava seduto un uomo magro, con la faccia bruciata dal sole. Lo riconobbi. Era Snoot, un cibernetico assistente di Ghibarian. Indossava una canottiera e un paio di calzoni di tela tutti macchiati. Mi guardò fisso, come intontito. Il suo terrore cominciò a contagiarmi. Lo chiamai. Mi guardò con un ribrezzo incredibile. Non ti conosco. Non ti conosco. Che vuoi? Che cos'hai? Sei malato? Io non ti conosco. Dov'è Ghibarian? Ghibarian. Fuori dalla finestra le creste delle onde si alzavano e ricadevano lentamente, Ghibarian. Come se l'oceano si stesse coagulando. Ghibarian. No, no, no. Sei venuto per Ghibarian? E che cosa vuoi fare di lui? Che cosa dici? Lui dov'è? Non lo sai. Come posso sapere dov'è se sono appena arrivato in volo? Che cosa ti prende, Snoot? Come? Arrivato in volo? E da dov'è che vieni? Dalla Terra. Ne hai mai sentito parlare? Si direbbe di no. Dalla Terra. Santo cielo. E allora tu sei Kelvin? Sì, sì. Ma perché mi guardi in questo modo? Che cosa ho di strano? Niente, niente. Scusami, ma vedi, è stata una semplice sorpresa, io non ti aspettavo. Come sarebbe a dire non mi aspettavi? Sono mesi che avete ricevuto la comunicazione e anche oggi vi hanno avvisato dal Prometheus. Sì, sì, sì, sì, certo, certo. Solo che vedi, qui regna una specie di disordine. Eh già, è difficile non accorgersene. Oltre il vetro della finestra continuavano a brillare brandelli di densa schiuma color sangue che si raccoglievano negli avvallamenti tra le onde. Dov'è Ghibarian? Che cosa è successo? Non è alla stazione? No, e non andrà più da nessuna parte. Come dici? Ma che significa? Lo sai già. È... è... un incidente? E quando? Oggi all'alba. Ma com'è successo? Va a cambiarti, a riposarti. Torna tra un'ora, eravamo in 3. E adesso con te siamo di nuovo in 3. Tu lo conosci, Sartorius? Come conoscevo te, dalle fotografie. E lui è sopra, nel laboratorio. Però se tu dovessi vedere qualcuno, voglio dire... nome o Sartorius, tu capisci? Allora... allora che cosa? E allora non fare niente. Ma chi dovrei vedere? Un fantasma? Eh? Ah, capisco. Tu credi che io sia diventato matto? E che io non riuscirei a spiegartelo in un altro modo? Per ora. Ma del resto forse non accadrà niente. Però ricorda che io... ti ho avvisato. Ma di cosa? Che cosa dovrei vedere? Non lo so. In un certo qual modo dipende da te. Allucinazioni? No. Sono cose reali. Ma tu non le aggredire, ricordatelo. Che cosa è successo a Ghibarian? Tu torna fra un'ora. Sullo sfondo delle onde rilucenti, Snoot si sedette sulla poltrona con la testa abbassata. Aprendo la porta, gli lanciai un'ultima occhiata. Solo allora notai che Sulle nocche aveva del sangue rappreso. Ritornai alla rotonda. Sulla targhetta della prima porta si leggeva dottor Ghibarian, sulla seconda dottor Snoot, sulla terza dottor Sartorius, sulla quarta... Niente. Esitai, poi premetti piano la maniglia ed entrai. Non c'era nessuno. Attraverso una piccola finestra convessa si vedeva l'oceano, che da quella parte era tutto lustro, come se dalle onde colasse un olio rossastro. Il riflesso scarlatto riempiva la cabina. Su un lato c'erano vari scaffali di libri. Anche qui regnava il caos. Mi spogliai ed entrai nella doccia. L'urto dell'acqua mi calmò. Mi giravo sotto i getti bollenti come per togliermi di dosso il contagio della torbida incertezza che appestava la stazione. Uscito dalla doccia, presi dagli scaffali una vecchia monografia scientifica su Solaris e cominciai a sfogliarla. Il pianeta gira intorno a due soli, uno rosso e uno azzurro. A quell'epoca si riteneva ancora impossibile la vita dei pianeti dalle stelle doppie. L'orbita di questi corpi celesti, infatti, subisce una variazione ininterrotta per il gioco di gravità all'interno della coppia di soli. Ne derivano perturbazioni costanti, dove ogni forma di vita è distrutta sul nascere dalle radiazioni termiche o dal freddo glaciale. Stando ai calcoli, Solaris si sarebbe progressivamente avvicinato al Sole rosso e entro un milione di anni sarebbe piombato nella sua voragine rovente. Ma il pianeta aveva manifestato una sorprendente tendenza a mantenere costante un'orbita che, al di là di ogni possibile dubbio, avrebbe dovuto essere instabile. Fu esaminata la sua superficie, quasi completamente coperta dall'oceano e senza alcun segno di vita. Negli anni furono organizzate varie spedizioni e gli scienziati finirono col dividersi in diverse fazioni. Il pomo della discordia era l'oceano. Gli astronomi e i fisici affermavano che doveva trattarsi di un insieme organizzato in modo estremamente evoluto, superiore agli organismi terrestri, essendo in grado di influire sul percorso dell'orbita planetaria. Tutti però erano d'accordo sul fatto che si trattasse di una formazione organica che i fisici definirono macchina plastica. Non tutti invece convenivano con la definizione di essere vivente e tantomeno con il chiamare raziocinante l'oceano, che fu catalogato genericamente nella classe metamorfa. Stavo ancora leggendo quando ebbi l'impressione che qualcuno mi fissava. Ero paralizzato dallo spavento, mi voltai di scatto, ma la stanza era vuota. Dalla finestra convessa l'immensa, informe e cieca oscurità dell'oceano mi stava fissando. Uscii dalla mia cabina e cercai quella di Ghibarian. Qui tavoli e sedie erano sepolti sotto mucchi di pubblicazioni. Una vera marea di carte, di foglietti, manoscritti copriva il pavimento. Riconobbi la scrittura di Ghibarian. Mi capitò sott'occhio la descrizione di un esperimento progettato 3 settimane prima, dove Ghibarian pensava di sottoporre il plasma dell'oceano a un'azione fortissima di raggi X. L'uso dei raggi X era vietato dall'ONU ed era assolutamente certo che nessuno avesse chiesto alla Terra un permesso del genere. Era l'alba. Dopo una notte della durata di un'ora stava sorgendo in una linea di fuoco bluastro il sole azzurro del pianeta. Dopo la fase rossa in cui l'oceano si velava di una nebbia rosa sporco, ora il cielo era un bianco mare di fuoco sotto il quale palpitava una distesa di metallo liquido. Udì un rumore di passi. Qualcuno avanzava nel corridoio. I passi rallentarono e si fermarono. Il nuovo arrivato era fermo. Dall'altra parte. La maniglia si abbassò piano, distinto, la afferrai e la trattenni. A un tratto la maniglia mi scattò in mano e un rumore lieve che si spegneva mi disse che l'altro se n'era andato. Uscì per controllare e mi fermai come impietrito. Dal fondo del corridoio avanzava a passo lento, dondolante, un'immensa donna di pelle nera. Indossava solo un gonnellino di paglia intrecciata, i seni enormi ondeggiavano liberi e le braccia scure erano grosse come la coscia di un uomo. Mi incrociò senza degnarmi di uno sguardo e alla curva del corridoio sparì. che cosa avevo visto. Non so per quanto tempo rimasi fermo, immerso nel silenzio della stazione. Mi diressi poi lentamente verso il laboratorio di Sartorius, spinsi la maniglia, come prevedevo non cedette, bussai. Nessuna risposta. Sartorius! Dottor Sartorius! Sono io! Sono Kelvin! Sono quello nuovo! Devo vederla! Per favore, mi apra la porta! Dall'interno giungeva una serie di passi, come il camminare di un bambino. Era un rapido, tenue passo di piccoli piedi. Dottor Sartorius, mi apra! Aprirò, ma lei deve promettermi che non entrerà. Le verrò incontro. Udì uno stridore. La porta si socchiuse e Sartorius ne sgusciò fuori, coprendola con la sua persona. Era sproporzionatamente alto e magro, aveva le labbra livide e non era rasato. Mi chiamo Kelvin, sono l'assistente di Ghibarian e ho saputo che Ghibarian è morto. L'ascolto. È stato un suicidio? Chi ha trovato il corpo? Perché si rivolge a me? Il dottor Snorton non le ha spiegato? Volevo sapere che cosa lei avesse da dirmi. Lei è uno scienziato, dottor Kelvin? Sì, ma a che proposito? Avrei detto che lei fosse un agente della polizia criminale. Perché lei, invece di cercare di inserirsi nel lavoro della stazione, non contento dei modi brutali con i quali ha cercato di introdursi nel mio laboratorio, mi interroga come se fosse un individuo sospetto. Mi resi conto che non mi aveva ascoltato. Nascondeva entrambe le mani dietro di sé, con tutte le sue forze tratteneva la porta che vibrava leggermente. Se ne vada, per l'amor di Dio, se ne vada! Lanciò un urlo orrendo. No! Come se gli avessi puntato addosso un coltello. Vattene, va via, ritorno subito. No! Si lanciò dentro. Si udì una corsa pazza che si concluse con un terribile fracasso di vetri rinfranti. Sentì un suono come di un bambino che ride a crepapelle. Mi guardai intorno, ora tutto taceva. Mi allontanai e scesi giù nei magazzini. Aprendo la pesante porta dell'impianto refrigeratore, fu investito da un gelo che schiantava le ossa. Sul lettino vidi una forma coperta da un telo e il volto cereo di Ghibarian. Notai che lì accanto spuntavano una decina di grossi chicchi neri. Mi irrigidì. Erano i polpastrelli ovali di due piedi nudi rivolti verso l'alto sotto la coperta appiattita contro il corpo del morto. C'era la donna nera. Sembrava immersa nel sonno. Guardai le sue piante nude. La loro pelle era sottile come quella delle spalle o delle braccia. Quando vi appoggiai la punta delle dita, il corpo si mosse, ritirò la gamba, arretrai e ritornai nel corridoio. I miei pensieri scivolavano verso un abisso con il pericolo di precipitarvi. Nella cabina buttai vestiti e biancheria nel pavimento e mi lasciai cadere sul letto. Mi addormentai senza accorgermene, con la luce accesa. D'improvviso aprì gli occhi. La stanza era immersa in una penombra rossastra. La tenda era scostata per metà. Nella luce del sole rosso c'era una figura seduta. Era Harry. In un vestito bianco. Aveva i piedi scalzi. Mi guardava fisso da sotto le lunghe ciglia. Il mio pensiero fu: che belli questi sogni in cui sai di sognare. Ma avrei preferito che svanisse. Chiusi gli occhi. Quando li riaprì, era seduta davanti a me come prima. Era proprio come l'avevo veduta per l'ultima volta. I morti rimangono giovani. Sei venuta a farmi una visita, è vero? Era bellissima. Chiusi le palpebre, cercando di svegliarmi. Poi, di colpo, udì uno scricchiolio. Immediatamente aprì gli occhi. Si era seduta sul letto accanto a me e mi guardava. Seria. Continuavo a ripetermi che era un sogno, ma cominciavo a essere inquieto. Da dove vieni? Dove? Non so, è sbagliato. Ti ha vista qualcuno? Non lo so. Sono venuta e basta. Ma perché, Chris? È importante. Ari. Cosa? Come hai fatto a sapere dov'ero? Non ne ho idea. È buffo, no? Dormivi quando sono entrata e non ti ho svegliato. Altrimenti ti arrabbi. Ti arrabbi e diventi noioso. Mi chinai su di lei e alzai la manica del suo vestito. C'era il puntino rosso di un'iniezione. Nonostante me lo aspettassi, mi venne la nausea. Toccai con il dito quel segno di puntura, lo stesso che vedevo in sogno da anni, che mi faceva svegliare urlando, piegato in due come era sdraiata lei. Quando l'avevo trovata, Ari aveva fatto di colpo quella cosa orribile, lasciandomi solo 5 parole su un foglietto. Dove siamo, Ari? A casa. E dov'è? I suoi occhi si aprirono un attimo e si chiusero di nuovo. Chris. Che cosa? Sto bene. Ormai non mi dicevo più che era un sogno, non lo credevo più, pensavo solo devo difendermi. Mi chinai, toccai leggermente la caviglia, passai la mano sotto la pianta del piede. Era delicata come quella di un neonato. Seppi allora con certezza che non era Ari e che quasi sicuramente lei stessa non lo sapeva. Mi alzai vestendomi in fretta. Lei mi guardava. Dov'è la tua roba? Hai solo questo vestito? Non so. Chris, ho l'impressione che sia successo qualcosa. È come se avessi scordato, come se avessi scordato quasi tutto. Solo ricordo te. E niente più. Sono stata malata? No. Ma si potrebbe dire anche di sì. Sì, per un certo tempo sei stata un po' ammalata. Ah, ecco. Sarà per questo. E le cose tra noi come vanno? Bene o male? Nel migliore dei modi. Quando rispondi così, di solito è perché vanno male. Ari, adesso io devo uscire. Mi aspetterai, è vero? Devo aspettarti. Per molto. Un'oretta. Vengo con te. Era un'altra Ari. Quella che conoscevo non era mai stata così invadente. Non è possibile, Ari. Ari, è impossibile. Devi rimanere. No. Perché? Non lo so, ma non posso. Ma perché? Non lo so. Mi sembra che... Chiaramente. Cercava una risposta. Quando la trovò, fu per lei quasi una scoperta, che aveva però molto poco a che fare con una dichiarazione di amore. Mi sembra che io non debba smettere di vederti. Fissandola negli occhi, cercavo con lo sguardo qualcosa con cui legarla. L'abbracciai stretta, facendole male. Lei, però, con un'espressione del tutto indifferente, spezzò la mia stretta e si raddrizzò. I suoi occhi mi osservavano con la stessa tranquilla curiosità di prima, come se non si fosse resa conto del mio disperato sforzo per immobilizzarla. In una nicchia del muro c'era una cassetta di pronto soccorso. Presi un tubetto con dei sonniferi e buttai la dose massima nel bicchiere. Aspettai che si sciogliessero le pastiglie e mi avvicinai a lei. Sei arrabbiato? Bevi questo. Non saprei spiegarmi il motivo. Ma ero certo che mi avrebbe ubbidito. Prese il bicchiere dalle mie mani e ne beve il contenuto. Mi si avvicinò e si accucciò per terra come era solita fare. Pian piano la sua testa scivolò dalle mie ginocchia. Il respiro era quello regolare di una persona addormentata. Mi chinai per adagiarla sul letto. Di colpo, senza aprire gli occhi, mi afferrò i capelli e scoppiò a ridere. Rimasi paralizzato mentre lei rideva più non posso. Perché ridi? Non lo so neanch'io. Le posai le mani sulle spalle e risalii fino ad arrivare all'attaccatura del collo. Guardandola, dritto negli occhi tranquilli, mi venne un'orrenda voglia di stringere le dita con forza. Come mi guardi? Il cuore mi batteva così forte che non fui in grado di replicare. Di colpo articolai un piano d'azione, minuzioso in ogni particolare. Mi avvicinai all'armadio e scelsi due tute colorate. La condussi alla capsula del Prometheus ancora posata sulla piattaforma. Dobbiamo volare. Anche tu. Entra. E tu? Entrerò dopo di te. Devo chiudermi il portello alle spalle. Chiusi con forza il portello e con due mosse tirai le leve. Non avevo affatto intenzione di lasciarla prigioniera per sempre, no, ma avevo bisogno di un paio d'ore di libertà per elaborare un progetto e parlare con Snoot. Mi allontanai di qualche passo e vidi una cosa a cui spero di non assistere mai più. Tutto il razzo vibrava. Sussultava sotto una serie di colpi che sembravano sferrati dall'interno. Se invece di una sottile ragazza bruna avessi chiuso nel razzo un automa d'acciaio, non sarebbe riuscito a scuotere in modo così violento quelle 8 tonnellate di materiale. Corsi verso il quadro dei comandi e spinsi in alto la leva che attirava le comunicazioni dall'altoparlante, e del razzo uscì un clamore lacerante, l'urlo di una voce, Chris! Che non aveva niente di umano, Chris! E ripeteva, Chris! Spinsi violentemente la leva che attirava il reattore e il razzo partì lasciando dietro di sé una scia infuocata. Mi limitai a inserirlo nell'orbita circolare attorno a Solaris. Non avevo più il coraggio di accendere l'altoparlante. Ero pronto a tutto pur di non sentire ancora quella voce spaventosa. Quando tornai nella mia camera, nella luce livida del tramonto azzurro, vidi qualcuno nella poltrona davanti alla quale era stata inginocchiata Harry. La paura mi paralizzò, ma durò una frazione di secondo. La persona alzò la testa. Era Snoot. Allora, ci facciamo una chiacchierata? Abbiamo avuto visite, eh? Sì. E siamo riusciti a sbarazzarcene. Beh, non si può dire che tu vai tanto per le spicce. Narcotico, veleno, lotta libera, ok. Che cosa vuoi? Se hai voglia di fare il buffone, meglio che tu te ne vada. No, è che certe volte si fa i buffoni, ma senza averne voglia. Non mi dirai che ho usato la corda o il martello? Insomma, non hai staccato il lavandino, non hai tentato di spaccarle la testa contro il muro, ma semplicemente hai imballato e spedito via. Mi consideri un bastardo, eh? Un porco fatto e finito. Sì, sì. Ma tu mi avresti creduto? Se te l'avessi detto? Cioè, tu avresti creduto a una sola parola? È capitato a Ghibarian per primo. Lui si chiuse nella sua cabina, parlava soltanto attraverso la porta e noi l'abbiamo considerato un pazzo. Però lui cercava solo di classificare la cosa, arrivare a un ordine a risolvere. Noi pensavamo che avesse allucinazioni, disturbi del comportamento. Come? Proprio lui? Sì. Prendeva allucinogeni, sperimentava. E così andava avanti. Però lui ignorava che nel frattempo anche noi avevamo avuto i nostri visitatori. Noi continuavamo a controllarlo, a parlargli. Ma dovevate pur sentire, dovevate sentire due voci allora. No, no, solo la sua voce. Anche se c'erano altri rumori incomprensibili. Solo la sua. Ma come mai? Non lo so. Tu comunque devi aver visto qualcosa già ieri. Credevo di essere impazzito io. E che hai visto? Quella nera. Mi potevi avvisare? Ma io ti ho avvertito nell'unico modo possibile. Senti, Snoot, una domanda. Ora, con lei, Ari, che cosa succederà? Mi chiedi se tornerà? Sì. Torna. Non torna. Ma che significa? Tornerà come era. Ossia come durante la prima visita. Semplicemente non saprà niente, o meglio, sarà come se tutto ciò che hai fatto per toglierla di mezzo non fosse accaduto. Kelvin, e chi era? La donna che si iniettò. Suicidio? Sì. Tutto qui? No. No, no, no, no, no, no, non può essere tu. Ma come fai a saperlo? È che avevamo litigato. Sono stato io che le ho detto, sai, tutte quelle cose che si dicono con rabbia, insomma, presi le valigie e me ne andai. Lei mi fece capire. Ma ero sicuro che l'aveva detto, tanto per dire. Le fiale le avevo portate io dal laboratorio. Quando ritornai, non era più viva. Povero innocente. Lo osservai come se fosse la prima volta. La stanchezza era evidente nei solchi profondi delle guance. Perché parli così? Perché questa storia è così tragica. No. No, è che tu continui a non capire. Kelvin, che cos'è un uomo normale? Chi è un uomo normale? Uno che non ha mai commesso niente di abominevole? Sì, certo. Ma siamo sicuri che non ci abbia mai neanche pensato? Forse no. Eppure qualcosa ha pensato in lui. Sì. E adesso tu immaginati che di colpo un certo giorno quell'uomo trovi quella cosa incarnata, attaccata a lui, indistruttibile. E allora, tu lo sai che cosa succede allora? Allora hai Solaris. Ecco tutto. Ma Solaris in che modo c'entra? C'entra, c'entra. È di Solaris che parlo. Sempre e solo di Solaris. E di niente altro. Ma che cosa è Solaris? Quello che volevamo. Il contatto con un'altra civiltà, no? La verità è che noi non abbiamo bisogno però di altri mondi, ma di specchi. Sì, perché degli altri mondi noi non sappiamo che farcene, il nostro ci basta, ci avanza. E adesso che noi ce l'abbiamo, questo contatto, vediamo che si tratta solo della nostra mostruosa bruttezza, della nostra follia, della nostra vergogna ingrandite al microscopio, che sia l'oceano. Che sia lui. E a che scopo? Ma per l'amor di Dio, tu pensi che lui voglia giocare con noi o che ci voglia punire? Sì, il pianeta sarebbe dunque dominato da un grosso demone che per soddisfare il suo umorismo rende succube tutto l'equipaggio. No, no, questo diavolo non è così stupido. La cosa è cominciata pochi giorni dopo l'esperimento con i raggi X di Ghibarian. Forse l'oceano ha risposto alla radiazione con un'altra radiazione e così ha potuto sondare i nostri cervelli e impadronirsi di certe costellazioni psichiche. Questo plasma è un plasma, ma che ricorda? L'oceano ha prelevato questo da noi, ne ha preso nota, ma perché l'ha fatto? Ci manda i nostri fantasmi. No, non sono fantasmi, sono persone reali. Soggettivamente lo sono. Non si rendono affatto conto della loro origine. L'hai notato? Sì. E allora? Non si possono uccidere. E io non ti consiglio di provarci perché è uno spettacolo spaventoso. Loro si rigenerano ad una velocità impossibile, praticamente a vista d'occhio. Dopodiché cominciano a comportarsi come l'immagine che abbiamo di loro, come gli appunti impressi nella nostra memoria. Io non ho idea da dove arrivino questi visitatori. Noi ce li troviamo davanti al nostro risveglio, però che vuoi? Di tanto in tanto bisogna pur dormire, no? È un modo per proteggersi? Funziona, sì, ma per poco. E poi non restano che i sistemi... E tu sai bene quali. Di un po', Snoot. Non è che hai in mente di liquidare la stazione e vorresti che la cosa partisse da me, vero? No, non è così semplice. Cioè, naturalmente noi potremmo scappare. Per esempio sul satellite e poi da lì mandare un SOS. E poi loro ci tratterebbero tutti come dimenticati. Dobbiamo aspettarci di essere rinchiusi in una clinica sulla Terra. Sì, che però forse non sarebbe la soluzione peggiore. Giardino, tranquillità, stanzette bianche. Snoot parlava seriamente, fissando le creste delle onde che svanivano in un deserto colore di inchiostro. E allora? Sei disposto a tagliare la corda oppure no? Ah, non ancora. E beh, si vede che non ci sei ancora passato, altrimenti non terresti così duro. Kelvin, ma la questione qui non è quello che tu vuoi, ma quello che è possibile. E quindi? Restiamo? Vuoi provare a scoprire un mezzo per... Chissà. Potrebbe valerne la pena. Sai, non tanto per scoprire qualcosa su di lui, ma su di noi. Snoot mi lasciò un fascicolo, girò su se stesso e uscì. Sedetti accanto alla finestra, c'era ancora luce che colorava le pagine di rosso. Era la registrazione della spedizione di un unico pilota, Burton. La trascrizione del diario di bordo e la deposizione di Burton stesso alla Commissione Solaris. Quota 1000, niente da segnalare. Ore 16:40, si alza una nebbia rossa, visibilità a 700 metri. Ore 17, visibilità a 400 metri con qualche schiarita, scendo a quota 200. Ore 17:20, visibilità 20 e 40 metri, risalgo a quota 400. Ore 17:45, quota 500, un mare di nebbia fino all'orizzonte. La nebbia è forata da aperture imbutiformi, laggiù sta succedendo qualcosa. Ore 17:52, scendo a quota 100, vedo una specie di vortice, scendo a quota 20. Fui sospinto dentro le nebbie dell'oceano da un forte colpo di vento. Non era una nebbia normale, ma una materia colloidale che ricopriva completamente i vetri, era viscosa e cominciò a farmi perdere quota. A quel punto notai un cambiamento sulla superficie dell'oceano. Il fluido, la sostanza che componeva l'oceano diventava trasparente. Sotto si condensava una melma, un fango, che saliva a filamenti formando protuberanze che, un po' alla volta, assumevano forme di vario genere. Guardai sotto e vidi qualcosa che somigliava a un giardino. Un giardino, sì, con alberelli nani, siepi, vialetti, irreali, tutti fatti di quel fango che si era solidificato in un gesso giallastro. Gli alberi e le piante che hai visto avevano le foglie? No, era una specie di... era come il plastico di un giardino. Sei assolutamente sicuro che quello che hai visto ricordasse un giardino? Sì, perché ho notato anche altri dettagli. Ad esempio, ho avuto l'impressione che vicino alle piante ci fossero degli oggetti, come dei calchi dei nostri attrezzi da giardinaggio. E non hai pensato che potesse trattarsi di un'allucinazione? Mi sentivo benissimo. Intorno al giardino, intorno al giardino si alzava un muro, come quello di un enorme edificio. All'improvviso questo muro si spaccò in due e comparve un corpo, la cui forma ricordava quella di un uomo. Lo hai visto in faccia? Sì. E chi era? Un bambino, ma qualcosa non andava. In che senso? Mi spiego. Era di una grandezza spropositata. Se era così grande, come facevi a sapere che era un bambino? Perché era un bambino piccolo. Non ti pare che la tua risposta manchi di logica? No, per niente. Era nudo, completamente nudo, come se fosse appena nato. Aveva capelli neri, due enormi occhi azzurri. Mi fece un effetto spaventoso. Perché? Cosa faceva? Sembrava una bambola da museo. Una bambola vivente con cui qualcuno stesse facendo delle prove di movimento. La cosa più terribile era il viso. Un viso vivo, sì, ma non umano. La mimica. Era per metà triste, per metà allegra, con una parte atterrita, l'altra esultante. Forse erano i sintomi di un'intossicazione, Berto. No, quello che ho visto non me lo sono inventato. Un'allucinazione è un qualcosa creato dal mio cervello, giusto? E il mio cervello, una cosa così, non se la sarebbe mai inventata, non ne sarebbe stato capace. Di allora di che cosa si sarebbe trattato? Prima devo sapere come verranno interpretate le mie dichiarazioni. Che importanza può avere? Per me è fondamentale. Se la commissione riconosce le mie dichiarazioni una sia pur minima verosimiglianza, tanto da ritenere opportuno studiare l'oceano, allora dirò tutto. Se invece la commissione le interpreta come un mio delirio, non dirò più niente. Perché? Perché? Perché il contenuto delle mie allucinazioni riguarda soltanto me. Io non sono tenuto a renderne conto. Mentre delle osservazioni riguardanti Solaris, sì. Significa che ti rifiuti di rispondere ad altre domande finché gli organi competenti non abbiano preso una decisione. Sì, sì. Ma desidero dichiarare che la commissione sta recando pregiudizio non a me. Io non conto niente. Ma allo spirito stesso della spedizione. Mi girai verso la finestra. L'orizzonte era immerso in un viola profondo. Sentivo il fruscio della carta attaccata ai ventilatori. Mi sdraiai sul letto. L'oscurità aveva ingoiato anche la finestra. Mi ricordai quanto mi avesse spaventato la sera prima il vuoto sguardo dello spazio solariano. E quasi ne sorrisi. Non ne avevo più paura. Tra un'ora sarebbe sorto il sole azzurro. Sentì un fruscio e il leggero scricchiolio della porta che si apriva. Chris! Sei qui, Chris! C'è tanto buio. Non importa. Non aver paura. Vieni. Non mi meravigliavo più di niente. Ero arrivato lontano. Nessuno era mai andato così lontano. Socchiusi gli occhi. L'oscurità si stava popolando. Qualcosa mi si ammucchiava addosso, con strati sempre più alti, all'infinito. Ero trapassato da parte a parte, lontano, molto, molto, molto lontano. Udivo i battiti del mio cuore. Sotto di me c'era il nulla e l'oscurità non ricopriva più niente. Strinsi le mani e vi nascosi il viso, ma il viso non c'era più. E le dita? Le dita passarono da parte a parte. Ari mi fissava senza muovere ciglia. Le batteva le palpebre, in genere. Non ero sicuro. Perché mi guardi? Perché sei bella. Veramente? È che mi guardi come se tu... Come se io... Come se tu cercassi qualcosa. Storie. No. È come se tu pensassi che ti ho taciuto qualcosa. Ma no. Se lo neghi a questo modo, allora è vero. Ma fa come vuoi. Tutto un tratto mi sembrò che fossi io ad ingannarlo. Fuori dalla finestra nient'altro che il luminoso chiarore madre perlaceo. Quando Ari si addormentò, aprii la porta e la chiusi con molta cautela. Avevo ancora la maniglia tra le dita, ma un colpo improvviso quasi me la tolse di mano. Mollai la presa e retrocessi. La superficie di plastica liscia cominciò a curvarsi. Lo smalto si sbriciolò, scoprendo l'acciaio dell'intelaiatura. Si udì un forte schianto e la lastra piegata si ruppe. Due mani insanguinate sbucarono fuori dall'apertura. Con il viso livido, lei si guardava con spavento le unghie rotte e le mani insanguinate. Chris, io... che cosa mi è successo? Ti sei ferita cercando di sfondare la porta. Sollevai le sue mani. Aveva ancora tracce di sangue, ma... le ferite erano scomparse. La pelle era più chiara. La cicatrice spariva quasi a vista d'occhio. Chris, sono stata io? Non ricordo, non c'eri. Mi sono spaventata a morte. Ho cominciato a cercarti. Qualcosa deve essere successo. Sedevo qui, sul letto. Se sono stata io, Chris, sono epilettica. Il silenzio fu rotto dal ronzio del telefono interno. Kelvin? Hai un ospite, vero? Sì. Sei occupato? Sì. E con ciò? Dai, piantala, Kelvin. Che Sartorius vuole vederti, o meglio, vederci. Parlare con noi. Ci metteremo in collegamento a tre col videotelefono. Diciamo tra un'ora, va bene? Bene. Decisi di portare Harry nel laboratorio e al microscopio incominciai ad analizzare il suo sangue. In quella nebbia di molecole avrei dovuto vedere degli atomi vibranti come una distesa di erba tremula, ma non vidi niente. Come sto? D'incanto, penso che non potresti stare meglio. Che cosa significava? Quel corpo fragile e delicato, in realtà indistruttibile, sembrava alla fine composto di niente. Le prelevai del sangue da una vena e lo versai in un cilindro. Lo suddivisi in provette, versai sulla macchia rossa una goccia di acido. Fumò. La goccia divenne grigia, si coprì di uno strato di spuma sporca. Presi in mano la provetta e quando la guardai, quel vetro sottile quasi mi cadde dalle dita. Sotto la schiuma sporca si riformava uno strato rosso scuro. Il sangue bruciato dall'acido si rigenerava. Era un'assurdità, era impossibile. Il telefono squillò, alzai il ricevitore. Sono io. Ho collegato le linee. Sì, in modo che si possa parlare in tre. La saluto, dottor Kelvin. Volevo esporvi, egregi colleghi, certe questioni che hanno attinenza con gli ospiti. Credo che sia opportuno unire le nostre informazioni e poi vi parlerò di ciò che sono riuscito a ottenere personalmente. Possiamo cominciare da lei, dottor Kelvin. Da me? Ah, va bene. Io ho fatto solo un preparato istologico. È tutto nella norma, ma si tratta di un puro simulacro, di una maschera. In un certo senso, si tratta di una super copia, di una ricostruzione più perfetta dell'originale. Un momento, che cosa intendi esattamente? L'elemento strutturale ultimo dei nostri corpi è l'atomo. Io credo che queste creazioni siano formate da particelle più piccole, molto più piccole, forse neutrini. E come te li immagini? Io credo che tutto, le cellule, il nucleo delle cellule, sia solo una maschera. La vera struttura è nascosta più in fondo. Desidero sollevare la questione del movente della comparsa di queste creazioni. Non sono persone, e nemmeno copie di certe persone, ma proiezioni materializzate di ciò che a proposito di una certa persona pensa il nostro cervello. L'esattezza della definizione mi colpì. Sartorius, per quanto antipatico, non era certo un cretino. In un certo punto si comportano come si comporterebbero le vere... i veri... originali. Sì. Ma appena la situazione oltrepassa le normali facoltà dell'originale, negli ospiti si verifica una specie di comportamento, per così dire... inumano. E qui entra in gioco la questione della singola individualità, concetto di cui a mio avviso l'oceano è totalmente privo. All'improvviso si udì un urlo nel ricevitore. Era Sartorius che gridava: vattene via! Mentre la sua immagine sul monitor si oscurava e scompariva. Via di lì! Snoot! Sì, Kelvin. Può bastare per ora, vero? Credo di sì. E con questo finì la discussione. Nel mezzo della notte mi svegliò una luce. Mi alzai coprendomi gli occhi con una mano. Ari era seduta sulla sponda del letto, rannicchiata, e piangeva in silenzio. Che cosa hai, Ari? Non mi parlare così. Tu non mi vuoi. Ma che cosa ti viene in mente? Vi ho sentito. Che cosa hai sentito? Che cosa hai capito? Dicevate che non sono io, che me ne devo andare. Me ne andrei. Me ne andrei, ma non posso. Ari, ascolta, ti dirò la verità. La verità? Parola d'onore. Non risposi subito. Questo era il nostro vecchio giuramento. Quando veniva pronunciato, nessuno dei due aveva il coraggio di mentire. Parola d'onore. Ari, anche tu sei cambiata, tutti noi cambiamo. No, tu non sei cambiato. Sono io. Mi succede qualcosa. Forse questo. Ma tu non dormi mai. Non lo so. Come non lo sai? Forse non è un sonno vero. Forse sono ammalata. Resto lì, sdraiata, e penso. Sai, sono dei pensieri esterni, come se non fossero i miei, ma venissero da fuori, da lontano. Probabilmente è un sogno. Chris, ti amo. Avevo voglia di urlare. Il mattino era rosso. L'immenso disco solare spuntava appena all'orizzonte. Sulla soglia della cabina c'era una lettera di Snoot. Sartorius pensava di riuscire a distruggere le strutture dei neutrini. Dopo colazione insieme ad Arei andammo in biblioteca. Continuavo a leggere, quando potevo, tutta la letteratura su Solaris e trovai un altro saggio di Sartorius che usava per Solaris parole strane e nuove. L'oceano crea inverosimili strutture di plasma. Chi le osserva per la prima volta rimane sbigottito dal carattere insolito e dalla loro vastità. Si tratta di onde gigantesche, del peso di centinaia di tonnellate, e ogni caduta di quelle masse è accompagnata da un boato. Chiameremo queste evoluzioni nemoidi, simmetriadi, asimmetriadi. La più complessa, longeva e capricciosa di queste forme è quella dei mimoidi. L'immensa massa scura è spinta verso il basso. Ogni colpo successivo sembra appiattirla. Dai singoli strati si stacca una sorta di grappoli a forma di collane che scorrono verso l'alto, mentre dalle zone superiori cadono in cerchio senza tregua i successivi anelli d'onda. Visto dall'alto, un mimoide assomiglia a una città, poiché i mimoidi copiano tutti gli oggetti che gli studiosi hanno portato su Solaris. La nascita dei simmetriadi è invece simile a un'eruzione. Circa un'ora prima l'oceano comincia a brillare violentemente, come se la sua superficie si fosse vetrificata su un'estensione di decine di chilometri quadrati. In solo un'ora quella superficie salta in aria sotto forma di una mostruosa vescica in cui tutto, il cielo, il sole, le nuvole e l'intero orizzonte si rispecchiano e si rinfrangono. L'abbagliante gioco di colori è una visione senza uguali. All'improvviso la superficie liscia si increspa e da ogni punto dell'orizzonte accorrono a schiere concentriche le onde. È la fine del simmetriade ed è una fine orrenda. Chiunque vi abbia assistito non dimentica più di essere stato testimone di una tragedia, forse di un assassinio. La parte immersa del Simmetriade subisce una tale compressione che il colosso si impenna e tutto quell'insieme meraviglioso di superfici malleabili cede, si allenta, vacilla. Dalle profondità invisibili sale un brontolio potente e le volte in rovina mandano rantoli come gole mostruose. Le asimmetrie di viceversa vivono meno di tutti gli altri. Qualcuno bussò alla porta. Rimisi a posto il libro. Vidi la faccia sudata di Snoot. Ah, sei tu. Entra. Ti ascolto. Mi sembra che Sartorius abbia trovato la strada. Sì, in primo luogo, sai, c'è stata quella faccenda dei raggi X, quell'esperimento che ha fatto Ghibarian, lo ricordi? E allora? Sartorius pensa che poiché l'ospite appare solo dopo che uno si sveglia, significa che l'oceano si occupa soprattutto del nostro di sonno. Sì, Sartorius, lui adesso vuole spedirgli la nostra realtà, i nostri pensieri, ma da svegli, lo capisci? E questo fascio di raggi sarà modulato con le correnti cerebrali in stato di veglia, ma di uno di noi. Ah, e quel qualcuno sarei io, è vero? Sì, sì, lui ha pensato proprio a te. E poi c'è un altro progetto, di costruire... l'annichilitore? Sì, sì. Lo strumento resterà in funzione per tutto un tempo indefinito, creando degli anticampi. Come? E che cosa accadrà? Semplice. Saranno annichiliti soltanto i neutrini, la struttura più piccola che abbiamo individuato negli ospiti. Kelvin, lo capisci? Niente più ospiti. Niente. È pericoloso. Si possono rischiare esplosioni e giocare con le strutture dei neutrini. Snoot si alzò e uscì dalla cabina. Dovevo fingere di accettare i loro piani? Avrei fatto di tutto per salvare Ari. Levi si avvicinò. Quel giorno era diversa dal solito. Si guardava intorno, come se fosse intontita. Chris, io non so come sono arrivata qua. Forse tu lo sai. No, non voglio dire questo. Forse non lo sai, ma... ma se lo sai... e non me lo puoi dire adesso, me lo dirai un giorno. Sentii una corrente gelata attraversarmi dalla testa ai piedi. Il sole azzurro declinava e la grande ombra della stazione si muoveva ritmicamente sulle onde biancastre. Ari, lo sai che ti amo. Me? Mi svegliai nel cuore della notte. Nella cabina non c'era nessuno, uscii nel corridoio, la porta del piccolo laboratorio era aperta, c'era la luce accesa, entrai, mi avvolse un freddo intenso, la cabina era zeppa di vapore, riuscii appena a vederla in mezzo a quella nube e mi buttai su di lei. Rantolava, il sangue sulla bocca si era solidificato, le labbra erano nere, sulla lingua brillavano dei cristalli di ghiaccio, l'ossigeno liquido, quanto le aveva ingoiato, si era bruciata trachea, gola e polmone, il suo respiro secco era schiante come foglie di carta. La cerata si affievoliva. Le guardai il viso. Aveva gli occhi aperti. Mi osservava. Mi aveva messo le dita fra i capelli. Vidi il suo volto riprendere colore. Cosa? Cosa? Non... non ci sono riuscita. Perché? Perché mi guardi così? Io non sono Ari. Chi sono? Ari? E tu? Tu? Forse anche tu? Ti faccio schifo, lo so. Non ti voglio così. Non voglio! Lo vedi che non sono io? Non sono io! Che devo fare per sparire? Smettila! Io non voglio, lo capisci? Non voglio che tu muoia, voglio che tu stia con me. Bugiardo, io non sono Ari. Un'altra. Non me. Amavi. Sì? Ma quella cosa non esiste più. È morta. Amo te. Qui. Lo capisci? Io non sono un essere umano. Sono solo uno strumento. Uno strumento dell'oceano per studiare le tue reazioni. Credo. Ognuno di voi ne è uno come me. Veniamo dalle vostre fantasie, ma tu lo sai meglio di me. Io non ho bisogno di dormire. E devo starti sempre vicina. È come se sotto la mia pelle non ci fosse un corpo, ma qualcosa di diverso. Come se fossi un involucro fatto per trarti in inganno. Che vuoi fare? Vuoi morire? Penso di sì. Ari, io non lo so perché Solaris abbia fatto questo. Forse la tua apparizione vuole essere una tortura, forse un favore, forse una beffa, ma che importa? Ascolta, io le somiglio. Mi sembravi identica. Adesso non lo so. L'hai cancellata. Forse se tu fossi lei, non avrei potuto amarti. Perché? Perché ho fatto una cosa orribile. A lei? No, non dirlo. Perché? Perché voglio che tu sappia che non sono lei. Il giorno dopo, rientrando in cabina, trovai un biglietto di Snoot sul tavolo sotto la finestra. Sartorius aveva sospeso la costruzione dell'annichilitore e preparava degli esperimenti per sottoporre l'oceano a radiazioni dure. L'alba rossa fiammeggiava dietro i vetri. Ari, devo andare da Snoot. E se tu venissi con me? Credi che sia possibile? Che cosa ne pensi? Saresti capace di stare da sola un po' a lungo? Forse. Se sento la tua voce me la caverò. Mi metterò a una certa distanza. Mi basta. A 15 passi dalla porta, Ari si fermò e mi spinse con la punta delle dita. Snoot era sulla soglia, aveva alle spalle il sole che colorava di luce bluastra i suoi capelli. Senza staccarmi lo sguardo di dosso, tirò a sé uno scappello e si sedette. Quando sarete pronti? Si potrebbe cominciare anche oggi, ma questa registrazione richiederà un po' di tempo. La registrazione? Vuoi dire l'encefalogramma? Beh, hai acconsentito, no? E allora? No, niente. Parla. Ti ascolto. Lei sa tutto. Ha cominciato a sospettare dopo la nostra conversazione questa notte. Mentre dormivo ha tentato di uccidersi con l'ossigeno liquido. Perché me lo dici? Io ti avevo avvisato. Io ti ho spiegato com'è. Ogni ospite quando appare è poco più di un fantoccio che, a parte un miscuglio di ricordi e di immagini presi in prestito, è quasi completamente vuoto. Quanto più rimane con te, tanto più si umanizza e diventa indipendente. E perciò, Kelvin, più dura, più è difficile. Kelvin, senti, che cosa pensi di fare ora? Lasciare la stazione? Sì. Con lei? Sì. Benissimo. E perché mi guardi? Pensavi che ti avrei ostacolato? Guarda che tu puoi fare quello che vuoi, caro mio. Io posso solo dirti che stai cercando di comportarti da essere umano in una situazione che di umano non ha proprio niente. Forse è bello, ma certamente è inutile. Anzi, io penso che non sia neanche bello. E da quando la stupidità è bella, tu rinunci a ulteriori esperimenti e vuoi andartene portandola via, sì? Sì. Ma anche questo, Kelvin, è un esperimento. Ma ci hai pensato? E poi tu le conosci le condizioni di una struttura di neutrini? No, no, e neanche tu, nessuno. È vero? Però una cosa la sappiamo. È una struttura instabile che si stabilizza, sì, perché si creano dei campi di energia, ma questi campi sono esterni rispetto all'ospite oppure sono la fonte, sì. La fonte che si trova nel loro corpo. Tu la afferri la differenza? Sì. Se è esterno, allora lei... Allora lei, allontanandosi da Solaris, la struttura si disintegra. Certo, non possiamo prevederlo con assoluta certezza. Tu ricordi quel piccolo razzo che hai messo in orbita? Basta chiamarla via radio. Se lei è ancora viva ti risponde. Dai Kelvin, cerca un po' di riflettere. Chi è che vuoi salvare? Lei? L'altra? Chi delle due? Ma che dovrei fare secondo te? La dovrei togliere di mezzo? Domani ritorna uguale, no? E parte con lei e assisterai alla sua metamorfosi. Un'agonia pura e semplice. Ma tu davvero li hai creduti immortali? Io ti assicuro che loro muoiono. E che farai allora? Io la amo. E chi? Il suo ricordo? Tu ami e non ami. Lei è pronta a dare la vita, tu anche, molto commovente, sublime, tutto quello che vuoi. Ma per tutto ciò qui non c'è posto. Ricorda solo che lei è fondamentalmente uno specchio che riflette una parte del tuo cervello. Senti, ma che cosa vuoi da me? Noi domattina andremo da Sartorius. Ci vieni? Verrò. Guardavo Smoot. Il suo braccio sinistro si era insinuato nella porta di un armadio. Stava in una posizione innaturale, come se nascondesse qualcosa o se tenesse per mano qualcuno. La porta vibrava. Esci. Ti ho detto, esci. Andai fuori. Ari era seduta sul pavimento e si alzò di scatto. Hai visto? Ci sono riuscita, Chris. Forse andrà sempre meglio. Una paura mi assalì di colpo. Pensai che la registrazione completa di tutti i miei processi cerebrali sarebbe stata spedita laggiù, nell'oceano. Che cosa aveva detto Snoot? Soffriresti in modo orribile se fosse tolta di mezzo, è vero? E se invece il mio vero desiderio fosse che lei sparisse per sempre? Come potevo essere responsabile del mio inconscio? Ma perché diavolo avevo accettato di farlo? Avrei potuto esaminare la registrazione, ma non decifrarla. Nessuno era in grado di farlo. Come poteva riuscirci questo fluido gigante, nero e alieno? Eppure mi era entrato dentro, individuando l'atomo più doloroso. Esistono in me pensieri, intenzioni, speranze tremende. E non ne so nulla. Chris, ci sono altri pianeti come Solaris. Noi conosciamo soltanto questo ed è un pianeta estremamente raro, non come la Terra. Noi siamo comuni, siamo l'erba dell'universo. Da molte ore giacevo nelle tenebre senza dormire, continuando a fissare le stelle. Che hai, Chris? È per quell'esperimento? Sì, è per l'esperimento. Che cosa si aspettano? Non lo so, non lo sanno neanche loro. Qualcosa. Qualsiasi cosa. La mattina, svegliandomi riposato, mi parve che l'esperimento sarebbe stato una sciocchezza. Io e Ari andammo al laboratorio. Snoot mi bagnò le tempie con il liquido fisiologico. Sartorius rimase a guardarlo mentre mi sistemava gli elettrodi, facendo mostra di non vedere Ari, che, appollaiata con aria infelice su uno sgabello, fingeva di leggere. Dottor Kelvin, le domando di non pensare a se stesso, a me, all'egregio collega Snoot. L'umanità ha un lungo cammino e noi siamo determinati a dedicare sacrifici e fatiche a questa nostra missione. Se lei non sarà sicuro di aver assolto il compito appieno, voglia dircelo. E l'egregio collega Snoot ripeterà la registrazione. Mi venne voglia di ridere per quella farragine di frasi pompose pronunciate con tanto sentimento. Poi per un po', non so per quanto, dimenticai la stazione, l'esperimento, Ari, l'oceano e tutto. Come le sembra che sia andata, dottor Kelvin? Benissimo. Uscì fuori con Ari. Le alte finestre del corridoio mostravano un tramonto di singolare bellezza. Nella sala rotonda della biblioteca, dal soffitto chiaro, l'aria era più fresca. Presi un prontuario su Solaris in ordine alfabetico, da abatologia a zootemiticità. Il compilatore aveva spulciato monografie, verbali di spedizioni, relazioni di viaggio, saggi, e aveva steso un catalogo grossolano ma ricco di definizioni. Consultai l'indice dei nomi che elencava alfabeticamente gli autori citati, ed era come scorrere un'anagrafe mortuaria. In pochi erano ancora vivi e nessuno fra questi si dedicava più allo studio di Solaris. C'era stata l'ingenua giovinezza della solaristica, poi l'età matura, piena di scetticismo. Con opinione quasi unanime si ritenne aberrante la posizione di tutta una generazione di studiosi che avevano creduto di scorgere le manifestazioni di una volontà cosciente nel muto gigante Solaris. Da un momento all'altro l'esercito di ricercatori si assottigliò. Le spedizioni massicce, le ipotesi ardite, non c'erano più. Si considerava Solaris un'agonia monumentale che durava da secoli. I mimoidi, gli asimmetriadi, gli altri processi osservati erano diventati tumori. Manifestazioni di caos e di anarchia. La solaristica si era trasformata in un labirinto pieno di vicoli ciechi. E un secondo cielo di carta stampata sembrava accompagnare nel tempo quello di Solaris. Certo, qualcuno avrebbe potuto ancora mettere in dubbio che l'oceano fosse una creatura viva. Ma ormai era impossibile negare l'esistenza di una sua natura psichica. Era influenzato dalla nostra presenza e riusciva a sintetizzare artificialmente i nostri corpi per i suoi incomprensibili scopi. Esisteva, insomma, e pensava e agiva. Il fascio invisibile di raggi X modulati dal mio encefalogramma durante l'esperimento colpì per 2 giorni la superficie dell'oceano completamente piatta. Verso la fine del secondo giorno, nel velo della foschia rugginosa, spuntò un gigantesco fiore di vetro, un simmetriade. In un quarto d'ora il colossale rubino si spense. Pochi minuti dopo una colonna si levò silenziosa, formando un enorme fungo illuminato dai 2 soli. In un'ora, lo spettacolo era sparito senza lasciare traccia. 6 giorni dopo, non essendoci stata alcuna reazione, ripetemmo l'esperimento per l'ultima volta. Durante tutto questo tempo nella stazione pareva non accadesse niente. Passavo giornate intere nella biblioteca con Harry che mi seguiva come un'ombra. Avevo come l'impressione che ogni cosa nella stazione fosse un'impalcatura instabile pronta a crollare in ogni istante. Con Snoot e Sartorius non ci eravamo più visti. Il 15° giorno, dopo il tempo della sperimentazione, mi svegliai prima del solito, spossato da un incubo notturno. Attraverso la finestra vedevo il primo splendore del sole rosso come un fiume purpureo. L'oceano si squamava in strati sanguinosi per ricoprirsi di schiuma cristallizzata. Alcune di queste formazioni planavano vicino alle nostre finestre, passando appena qualche metro di distanza. 2 giorni dopo, di sera, ero seduto con Ari nella piccola cucina. Quando tutto è entrato, entrò Snoot. Sembrava più vecchio. Ti sei lasciato crescere la barba? Non hai voglia di raderti, vero? Stai attento, io ti avverto che anche lui aveva cominciato con il non radersi. Va a dormire. Perché non possiamo chiacchierare un po', Calvin? Ascolta, forse l'oceano vuole farci solo del bene, eh? Sì. Lui forse indovina i desideri del nostro cervello, forse ci conosce meglio di noi stessi. Bisognerebbe intendersi con lui, mettersi d'accordo, che ne pensi? Non vuoi? Perché? Perché tu non ti radi? Finiscila, finiscila e vattene. Cos'è, mi sbatti fuori? Ti lasci crescere la barba e mi lasci fuori? Apriamo i portelloni. Mettiamoci a chiamare, sì, a chiamarlo. Là sotto. Forse ci sente. Tu lo sai che cosa vuole fare Sartorius? Lui vuole punirlo, questo oceano. Lui vuole costringerlo a urlare. Io, se non fossi così ubriaco, non parlerei in questo modo. Però alla fine qualcuno deve parlare, no? Qualcuno alla fine deve parlare. Le tre settimane seguenti furono come un solo e identico giorno che si ripeteva sempre uguale. Io e Ari parlavamo spesso di come avremmo vissuto sulla Terra e non avremmo più abbandonato il cielo azzurro e gli alberi verdi. Ho mai creduto un solo istante a quello che le dicevo. La stazione era l'unico luogo dove potessimo vivere insieme. Ma lo sapeva Ari. Una notte sentii nel sonno che lei si alzava silenziosamente. Ritornò senza il minimo rumore, scivolò nel letto e rimase immobile. Ari, dove sei stata? Non sono mai uscita. Te lo sei sognato, Chris. Non sei uscita? No, devi averlo sognato. Forse è possibile che abbia sognato. La sera dopo, quando andammo a letto, lei si avvicinò con un bicchiere di succo di frutta, ne beve metà e me lo passò. Alla mia salute. Il succo mi sembrò salato, ma non ci feci molto caso. Cercavo di tenere gli occhi aperti. Mi svegliò l'alba rossa, il letto era vuoto, nella cabina nessuno, avevo già capito. Mi lanciai nella cabina di Snoot, che mi guardò fisso negli occhi. Dov'è? Lei. Non c'è più. Sei stato tu? Le hai consigliato di darmi il sonnifero, è vero? Che cosa hai fatto di lei? Snoot estrasse una piccola busta, l'aprì. Una grafia grande, un po' infantile. La riconobbi? Caro Chris, sono stata io a chiederglielo. Lui è buono. Ho dovuto mentire, non sarei riuscita in altro modo. Puoi fare una cosa per me? Ascoltalo e non farti del male. Come? Come? Stai calmo, Kelvin. Sto calmo. Parla. Come? L'annichilitore. Che cosa le è accaduto? È sparita. Un balenio, un soffio leggero, ma niente di più. Ritornerà. Ritornerà? No. Come no? L'hai uccisa. Sì. Tu non l'avresti fatto al mio posto. Chris. Chris, non si tratta più di una faccenda personale. L'oceano ha dimostrato di agire in modo intelligente. Perché non dici anche che l'oceano ha fatto esperimenti su di noi senza tenere conto dei nostri desideri? No, Chris. In un certo senso ha tenuto conto di ciò che voleva una parte nascosta del nostro cervello. Hai mai pensato che forse ci mandava dei regali? regali. Dio mio. E che tu istintivamente continui a trattarlo come un essere umano. Lo odi. E tu no? No. Chris è cieco. Cieco? Sì. Non nel nostro senso, naturalmente. Noi non esistiamo per lui come esistiamo tra noi. Per lui noi siamo come un vetro, sì, trasparente. E per questo lui può introdursi all'interno dei nostri cervelli. È possibile. Sì, sì, sì, sì, sì, è possibile. In tal caso lui può darsi che non abbia voluto affatto schiacciarci. Sì, sì, sì, bene, bene, bene, bene, bene. Tu sei buono. Anche lui è buono, tutti siamo buoni. Ma dimmi un po', Snoot. Dimmi un po', tu. Ci credi in Dio? Come? In Dio? Ma beh, chi è che crede oggi? Non parlo del Dio tradizionale delle religioni terrestri, ma sai se per caso, se ci sia mai stata una fede in un Dio imperfetto? Imperfetto? Sì. Che cos'è che intendi? Perché in un certo senso gli dèi delle varie religioni sono sempre stati imperfetti, perché avevano gli stessi attributi umani. No, no, no, no, no, io mi riferisco ad un Dio la cui imperfezione non derivi dall'ingenuità dei suoi creatori. Io mi riferisco ad un Dio limitato nella sua onniscienza, che sbaglia nel prevedere il futuro delle proprie opere e crea un corso di fenomeni che può fare orrore. Mi riferisco ad un Dio invalido che vuole sempre più di quanto può e non se ne rende conto. Ha creato l'infinito, che doveva essere la misura della sua potenza, e invece è diventato il metro della sua sconfitta. Questo Dio non esiste fuori dalla materia e non può liberarsene, mentre non vorrebbe altro. Una religione del genere io non la conosco, non è mai stata necessaria. Ma se ho capito bene, tu stai pensando a un Dio in evoluzione, sì, che continuando ad aumentare la sua potenza finisce con rendersi conto della propria impotenza. Chris, ma tu parli di Solaris? No, no, no, no, no, no, no, no. Solaris si è ripiegato troppo spesso su se stesso. Solaris è un eremita del cosmo, non il Dio di cui parlo, che forse sta già nascendo in qualche anfratto della galassia. Sì, ma magari Solaris è la culla di questo tuo Dio bambino. Sì, perché secondo il tuo ragionamento l'oceano è lo stadio primitivo, l'embrione del Dio disperato. E forse la vitalità della sua infanzia supera ancora di troppo la sua intelligenza. E noi per un periodo di tempo siamo stati i suoi giocattoli. Ma lo sai che cos'è questa? È un'altra ipotesi. Hai creato un'ipotesi sull'argomento Solaris. Guardammo le onde nere, si intravedeva una piccola macchia pallida e oblunga nelle nebbie all'orizzonte ad est. Chris, ma come ti è saltata in mente l'idea del Dio imperfetto? Non lo so, non lo so. Ma è l'unico Dio in cui sarei disposto a credere. La sua sofferenza non è una redenzione, non salva niente, non serve a niente, semplicemente è. Guarda, un mimoide. Deve essere vecchissimo, esco in volo. Vado a dargli un'occhiata. Fino ad ora non ho mai lasciato la stazione. Questa mi sembra la volta buona. Non mi piace. Io vengo con te. Grazie. Grazie. Ma preferisco andare da solo. È qualcosa di nuovo per me. È qualcosa di completamente nuovo. Indossai rapidamente la tuta. L'apparecchio si alzò lasciando dietro di sé il disco argenteo della base spaziale. Solo ora capivo e sentivo che le increspature e gli avvallamenti della superficie si muovevano non come le onde del mare, ma come un animale. aveva la contrazione continua e straordinariamente lenta dei muscoli di un corpo che se cerneva una schiuma scarlatta. Vidi delle protuberanze da lontano come un'isola e regolai il volo verso la sua deriva. Tra le nodose protuberanze c'era un'apertura, una specie di piccola spiaggia. Diressi lì il velivolo, spensi il motore e saltai a terra. Quello che vidi assomigliava in modo sorprendente a una città in rovina, una città antica, come solo i mimoidi sanno creare. Si vedeva chiaramente il labirinto di stradine tortuose, in parte coperte dalle macerie, coi vicoli bagnati dalla massa gelatinosa. Quest'isola città era tutta inclinata su un fianco, come una nave che affonda. Sedetti sulla superficie ruvida e screpolata, un'onda nera venne a coprire pesantemente la riva. Tesi la mano verso la successiva. L'onda esitò, retrocesse, sommerse la mia mano senza comunque toccarla. Alzai lentamente il braccio, l'onda lo seguì, continuando a coprire la mia mano come una coperta sempre più trasparente nello sgocciolare ed evolversi di questa creatura viva. In ogni atto, nei suoi movimenti, si manifestava un'ingenuità cauta. Quando si abbandonava a cercare di conoscere, di capire la forma nuova e inattesa, e quando con rincrescimento doveva ritirarsi, non oltrepassava i limiti imposti da una legge misteriosa. Non avevo mai sentito così acutamente la presenza immane dell'oceano che, nel suo silenzio potente, respirava regolarmente. Mi identificavo con quel cieco colosso, come se, senza il minimo sforzo, senza parole, senza un pensiero, avessi perdonato tutto. Nell'ultima settimana dopo la partenza di Snut e Sartorius avevo la sensazione di aspettare qualcosa, ma che cosa? Il suo ritorno? Non avevo immaginato neppure per un istante che questo colosso liquido si sarebbe commosso per la tragedia di due persone. Ma mi pareva, anche se non ero sicuro, che la sua azione si indirizzasse verso uno scopo. C'era una possibilità, forse minuscola, forse immaginaria, nascosta nel futuro. Andarmene significava cancellare quella possibilità. Avrei dovuto allora passare su Solaris molti anni, nella speranza di un suo ritorno. Non avevo più speranze. Però viveva in me l'attesa, l'ultima cosa che mi fosse rimasta, e una fede irremovibile che l'epoca dei miracoli crudeli non fosse ancora finita. Solaris per IF, Invasioni dal futuro, di Stanislav Lem, musiche e live electronics Gianluca Ruggeri,

Ed è un messaggio meraviglioso, perché comunque sia la libertà dovrebbe sempre coinvolgerci a tutti, e anche l'ideale di patria che viene anche così squalificato. In realtà la patria è un ideale romantico meraviglioso che dovremmo continuare a coltivare all'interno delle nostre anime, associato all'ideale di libertà. Quindi diciamo che, per rispondere alla domanda che mi hai fatto, il panorama era chiaramente particolare, perché ci trovavamo all'interno del romanticismo. C'erano stati moti rivoluzionari, si respirava una tendenza verso il sublime, verso l'esaltazione, l'amore della patria, c'era un clima assolutamente di forte motivazione, e tutto questo è bellissimo e dovrebbe essere, a mio parere, ancora estremamente attuale. Ci sono alcuni aspetti che ti hanno impressionato in particolare? Come ti dicevo, la storia di Colomba Antonietti Porzi mi ha sempre affascinata particolarmente. Ti racconto che la prima volta che entrai in contatto con questa storia avevo 19 anni e scrissi di getto un racconto su questa storia. Non ti nego che ho utilizzato anche qualche frase di questo racconto e mi sono molto emozionata nel farlo, in questo testo Le sfacciate meretrici, che porteremo in streaming. E quindi diciamo che la prima storia che mi colpì sicuramente fu questa. E poi sono venuta in contatto con tantissime storie, perché ho dovuto fare un lavoro di ricostruzione storica, perché il pericolo di fare degli errori a livello nozionistico e storico è sempre in agguato quando si fanno dei testi e delle ricostruzioni storiche. Quindi ho dovuto studiarne molte di queste storie, e fosse stato per me le avrei portate in scena tutte, ma appunto ci sarebbero voluti dei giorni di streaming e quindi abbiamo dovuto fare una scelta. Quanto dura la lettura e quante voci sono coinvolte? Il reading vede due donne e due uomini. Sono Virginia Bonacini e Chiara David, con Valerio Camelina e Andrea Carpiceci. Il reading stesso dura 50 minuti. Ci dai tutti i riferimenti web in chiusura? Il link per l'acquisto del biglietto, che costa 5 euro, sul sito del Teatro Vittoria, perché siamo all'interno di un'iniziativa di teatro in streaming che è stata promossa appunto dal Teatro Vittoria per la direzione artistica di Viviana Toniolo, che segue il Fil Rouge su Roma. Abbiamo iniziato con I Romani in Russia di Elia Marcelli, con Stefano Messina, Carlo Lizzani e Marcello Teodonio, e ora continueremo con Le donne del Risorgimento in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Le sfacciate meretrici, Donne del Risorgimento Italiano, Teatro Vittoria, in streaming su mymovies.it dall'8 al 13 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Bonome, che ne ha curato testo e messa in scena. Un abbraccio, in bocca al lupo, e a risentirci presto. Grazie a voi e a presto. Con Carlo Infante, curatore del progetto Paesaggi Umani, esplorare la città raccogliendo storie nelle geografie urbane per una mappa parlante, a Roma dal 7 al 14 marzo 2021. Carlo, ben trovato. Eccoci. Spiegaci cos'è questo progetto. Io lavoro sulle parole. Già paesaggi umani è una parola non così evidente. Io l'ho pescata a mia volta da David Hikmet, che era una che ha a che fare con la cultura sufi, ma era anche amico di Trotsky e di Majakovskij. Chiusa la parentesi, per dire, paesaggi umani è un bel concetto, perché non c'è solo il paesaggio naturale o quello urbano, c'è quello umano, anche perché le geografie sono fatte da chi le ha antropizzate, quindi raccogliamo le storie. Mi interessa moltissimo intercettare testimonianze orali, oppure alcune cose le scarichiamo dal web, utilizziamo quindi questi oggetti audio, questi podcast. Ecco, i podcast, no? Se ne sta parlando molto, noi ci lavoriamo da anni, decenni. Tornando al punto, noi produciamo una mappa mentre camminiamo, la mappa parlante. Quindi i nostri walkabout, che sono in fondo delle passeggiate, ma sono delle esplorazioni, ma sono delle conversazioni, ma sono anche delle trasmissioni radiofoniche, perché noi andiamo in streaming web radio. E tutto quello che lasciamo alle nostre spalle, ovvero le registrazioni, vengono distillate in dei podcast georeferenziati che vengono posizionati sulle mappe. Quindi qui si vede nei territori, tipo domani siamo a Tor Fiscale e percorriamo tutto il percorso dell'Acquedotto Felice, evocando la storia di Don Sardelli, il maestro del campo barbarico, che a metà degli anni 60 ha creato questa scuola straordinaria con i bambini, i ragazzini dei baraccati, che vivevano sotto i fornici dell'acquedotto Felice. E noi lì troveremo, quando abbiamo finito, lasciamo proprio la traccia, sai, come le lumachine, no? Che lasciano per la loro scienza, cliccando su web, su Radio Walkabout, oppure su Geoblog con Twitter, lo stesso Radio Walkabout, e per rendere evidente di come un'azione come Walkabout produce una scia radiofonica, oppure Geoblog con Twitter, che è proprio la mappa, il Geoblog, concetto che abbiamo proprio coniato noi tanti anni fa. Quali sono gli argomenti di queste conversazioni? Abbiamo parlato del come, e noi lo anteponiamo, il come, i metodi, secondo me vengono prima dei contenuti, io ne sono convinto, ma sono importantissime le storie che andiamo a narrare, poi Don Sardelli l'ho appena evocata, ma ne facciamo 17, qui sono quasi 17 storie, ma andiamo a ricordare Sisto Quinto, per Papa Tosto, e forse il Papa più importante, perché quello, mezzo secolo dopo, il sacco dei Lanzichenecchi, che hanno fatto malissimo a questa città, cioè altro che barbari, i Lanzichenecchi gli hanno proprio voluto fare male alla città cattolica, loro protestanti, tozzissimi, avvelenati come erano, e il Papa Tosto, Sisto Quinto, Balbo Marchigiano, la rimette su, e ha rimesso su tipo l'acquedotto Felice, lui si chiama Felice Peretti, si ha acquedotto Felice, si chiama così, ricordiamo la sua storia, ma anche quella di Cristina di Svezia, la regina di Roma, che nel 600, e potremmo dire che il barocco nasce grazie a lei per accoglierla. La prima grande festa per accogliere Cristina di Svezia è stata riconosciuta da molti come lo start del barocco a Roma, il momento più alto, il momento apice, ma in cui si sono raggrumate proprio tantissime sensibilità, era il 600 romano, e parleremo di Renato Nicolini, il miglior assessore di sempre. Una persona straordinaria, comunista e situazionista insieme, io ho conosciuto benissimo, andremo nell'archivio capitolino, nel suo archivio personale che viene lì raccolto, raccontando un po' delle sue storie. Andiamo nella casa, il nido d'amore di Roberto Rossellini e Ingrid Bergman a Tor Carbone, e da lì apriamo un varco in una rete per entrare in una cava di San Pietrini, in mezzo a questa archeologia industriale a due passi dall'archeologia dell'arte antica. E quante altre ce ne sono da dire, se vuoi, no? Ogni appuntamento quanti incontri mette insieme? Allora, ogni appuntamento è una storia, e spesso le concateniamo queste storie, tipo quello di Sisto Quinto finisce, partiamo dal Palazzo Peretti che sta a Via di Parione, e arrivare a San Salvatore in Lauro, dove parte quasi a staffetta la storia di Cristina di Svezia, anche perché sono collegati, perché è il Pio Sodalizio dei Piceni, i martigiani che accolgono a Roma Cristina di Svezia, loro nascono grazie a Sisto Quinto, quindi alcune di queste storie sono un po' combinate tra di loro a staffetta, tipo ne facciamo una appunto con Paolo Ramondo, che è quello che ne ha anticipato il 68 con gli uccelli, e andremo a Tordinona, dove c'è il murale forse più importante di Roma, il primo vero murale, quello di Tordinona, dell'asino che vola, che ha fatto lui con i suoi compagni. E parleremo delle storie di Paolo, che ora oggi fa l'agricoltore, ma lui era una delle figure di riferimento del movimento studentesco a Roma in quegli anni. Che durata complessiva ha l'evento? Un'ora, anche se tendiamo a farlo durare meno, perché siamo pieni di streaming, cioè questo è un anno in cui il mondo dello streaming ha esagerato, cioè tutti erano in chiusura a casa, con lo smart working, il telelavoro, tutto il resto, quindi si è veramente esagerato. Tieni conto che io mi occupo di queste storie, nel 1997 ho scritto un libro dal titolo Educare Online, quindi mi occupo di streaming da decenni, e quindi ho un certo pudore, quindi noi usiamo uno lo streaming audio, quindi web radio, quindi audio. Non solo, ma vogliamo farli durare poco, con un ritmo radiofonico. Sono gente che si mette lì a parlare per decine di minuti. Tutti parleranno, quelli coinvolti, non solo gli stakeholder, non solo gli esperti, ma anche i partecipanti. A me interessa la conversazione dei cittadini che incrociano i loro sguardi, no? Quindi dureranno mediamente tra i 30 e i 40 minuti, anche se c'è un po' di coda, no? Prima di partire, il walkabout non ha mai un vero inizio, non mi piace, non lo concepisco mai come un evento spettacolare. È proprio un processo empatico il walkabout, una dinamica di conversazione partecipativa a tutti gli effetti. Ci dai tutti i riferimenti internet? Beh, guarda, urbanexperience.it, e lì si trova in home page tutto. Se cerchi Urban Experience lo trovi subito, perché siamo stati i primi qualche tempo fa a usare questo termine, scippandolo anche agli anglosassoni, anche perché poi è nostro, urban, il concetto di urbe nasce a Roma. Anche se cercate Radio Walkabout.it e vi trovate direttamente dentro la web radio, no? Così anche su Facebook, cercate Urban Experience, trovate tutto, c'è anche un evento dove abbiamo messo tutti gli appuntamenti proprio a ruota, uno dentro l'altro, facciamo un unico evento che raggruppa tutti. Paesaggi umani, esplorare la città raccogliendo storie nelle geografie urbane per una mappa parlante a Roma dal 7 al 14 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento al curatore Carlo Infante. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ok, a presto, ciao. Con Katia Maurelli del Comitato Promotore Biodistretto Lago di Bolsena. Katia, ben trovata. A te. Ci racconti? Racconto di questa avventura del biodistretto Lago di Bolsena che rischia, così scherzare, di essere uno dei più grandi biodistretti d'Italia appena si formalizzerà. È un'avventura iniziata 3 anni fa almeno. È come la realizzazione di un processo, di un percorso di transizione voluto dal basso, ovvero da associazioni culturali, associazioni ambientaliste che negli ultimi 15 anni hanno portato una idea di ecologia e di ecologismo e di transizione ecologica sul territorio. Come territorio intendo l'area attorno al Lago di Bolsena. Siamo nel Lazio, in provincia di Viterbo, e siamo molto contenti di vedere addirittura di arrivo il fatto di depositare alla Regione Lazio a breve il dossier per chiedere il riconoscimento del biodistretto. Raccontaci di questo dossier. I biodistretti in Italia sono numerosi, anche creati in tante aree da nord a sud da molti anni. E quindi noi avremmo potuto fare il nostro biodistretto come hanno fatto tante altre realtà sul territorio italiano, ma anche all'estero, perché c'è un circuito internazionale dei biodistretti. Solo che l'anno scorso, se non sbaglio, la Regione Lazio ha fatto una legge sui biodistretti, un regolamento. Non so, così questa è la mia opinione personale, se questo è un vantaggio o uno svantaggio quando arrivano le regole dalle istituzioni. Comunque, per molti di noi, molte persone delle associazioni che da tempo appunto desideravano realizzare il biodistretto qui sul territorio, ci è sembrata una bella opportunità e abbiamo quindi scelto di seguire le indicazioni che la Regione Lazio ci dà per avere un biodistretto. E quindi a questo punto abbiamo dovuto creare un comitato promotore che presenterà un progetto di biodistretto che sarà fatto mappatura del territorio, indicazione delle realtà che hanno aderito, la regione chiede un minimo di 2 comuni, ma noi siamo arrivati a 14 comuni aderenti sul territorio. Chiedeva un minimo di 4-5 aziende bio del territorio, ma noi siamo arrivati ad oltre 30 aziende aderenti. La regione dava un minimo, no, di ingredienti che noi abbiamo ampiamente superato, quindi proprio in questi giorni formato il comitato promotore con il suo statuto come previsto dalla Regione Lazio, presenteremo questo dossier, questo per la parte puramente istituzionale. Cosa prevede il biodistretto? È interessante perché è un patto tra cittadinanza e, diciamo, elementi della struttura sociale, culturale ed economica di un territorio. Prevede la partecipazione, quindi l'adesione con delibera di amministrazioni comunali, che possono anche non essere confinanti. Noi stiamo cercando di, diciamo, avere un territorio compatto che coincide con il bacino idrogeologico del lago, perché dobbiamo immaginare che il lago di Bolsena, ma tutti i laghi più o meno sono così, soprattutto il nostro comunque, è molto più vasto sottoterra di quello che è lo specchio d'acqua, no? Quindi noi ci stiamo coordinando per avere un'uniformità, una compattezza e ci stiamo arrivando perché sono tanti i comuni che stanno aderendo. Le realtà agricole, aziende piccole, medie o grandi, entrano a far parte del comitato promotore aziende biologiche, ma in futuro l'obiettivo è di portare ad una transizione anche aziende che attualmente non lo sono. Quindi è molto incentrato sull'agricoltura, ma prevede la partecipazione di quelle che sono, per esempio, nel nostro territorio saranno molto importanti realtà economiche nell'ambito del turismo, quindi le strutture ricettive, che hanno un impatto ambientale forte e che possono modularsi per avere minore impatto ambientale. Gli artigiani, gli artisti, per esempio nel biodistretto Lago di Bolsena trova adesione anche il mondo della scuola, nel senso che le presidi degli istituti comprensivi hanno aderito al biodistretto. Questo per un lavoro fatto negli anni di sensibilizzazione delle scuole, di educazione ambientale nelle scuole. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, abbiamo appena creato la pagina Facebook Biodistretto Lago di Bolsena, che contiamo di animare appunto con notizie sia dall'interno che dall'esterno, sarà importante fare rete con gli altri biodistretti italiani. Instagram Biodistretto Lago di Bolsena. Il sito è in preparazione, ogni giorno ce n'è una nuova, quindi siamo in piena realizzazione. Biodistretto Lago di Bolsena, un saluto e un ringraziamento a Katia Maurelli del Comitato Promotore. Un grazie. Abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.